miraggio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tontero smilzo, presumile, snello, chi si riguitta può attraverso un anello. Quando ero faggio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Voi mi tagliate, chi? Colai, ma inuccia la sua faccia. Non tradite, mi parmi.